Da. Dove sta? L'ho chiamato, yeah, cercato, ormai ma Dio fango non c'è. L'ho andiamo suonato, bussato, ma Dio dove? Dicono che Dio lassù ci vede ma non parla. Io ci parlo ma lui non mi sente, zitto e guarda. Dicono che Dio lassù ci vede ma non parla. Io ci parlo ma lui non mi sente, zitto e guarda. Nel bel mezzo del cammino di nostra vita, vaffanculo tanto un pazzo ha detto che mia mamma si chiamava Gitano. Io non so chi sia, la scienza parla troppo ma la chiesa ha fatto il botto, dicendo che per loro sei vietato pucciare il biscotto. Bella storia, e poi li trovi dentro un camerino con la tipa messa a capochino che gli stacca un bel pompino. Padre nostro che sei nei cieli, siamo i figli delle scimmie senza peli. Non ho pensato a fare comunione ma hanno bastonato, poi arrestato e processato per inquisizione. Non credo nella chiesa e nei fantasmi, dopo che ho saputo che i peccati capitali li hanno scritti coi poteri paranormali. Adesso lascia stare, non esagerare, non sperare di poter restare lì a pensare ore e ore. Tanto il mio signore veglia su di me, su di te. Ma Mosè che cos'è, ma chi è? Su Monte non ha detto sì ma ha scritto le minchiate. Le ho studiate, ripassate, selezionate ad uno ed ho scoperto che era il bot insieme a una mignota. Sono fuori rotta, già lo so, ma dentro quella grotta sogno di repare con la Bibbia che mi scorta tra le mani. Non odiarmi, sono cristiano, poi mi pento e vado in chiesa a confessarmi. Dicono che Dio lassù ci vede ma non parla. Io ci parlo ma lui non mi sente, zitto e guarda. Dicono che Dio lassù ci vede ma non parla. Io ci parlo ma lui non mi sente, zitto e guarda. Quindi posso fare il cazzo che mi pare, tanto lui ci osserva però non può parlare. Lo sai che sto a scherzare, meno male. E se Dio c'è sicuro che miope, dicono che è morto, risorto ed è rimasto sordo. Le rime che ti porto sono scuse che ti porgo. Generazione malata, gioventù fallata, la mia strada non è mai stata baciata dal Papa. Per questo è sbandata la mia gente, tu non l'hai ascoltata e adesso non ti sente. Prete, lavami la bocca, passa il vino e l'ostia ci tocca. Per ingoiare i nostri sensi di colpa, chi credo al clero non vedo del vero. Non ci sente, lui ci fiuta, aiutati che non t'aiuta. Non discuta, lui fa sempre scena muta, se ti vede in giro non saluta. Prometto, farò il chirichetto, andrò in montagna con Maometto. Poi ti incontrerò e con tutto il rispetto prenderò a calci il tuo culo benedetto, yeah. L'ho chiamato, cercato, ma Dio non c'è, gli ho suonato, bussato, ma Dio dov'è? Dicono che Dio lassù ci vede ma non parla. Io ci parlo ma lui non mi sente, zitto e guarda. Ho licenziato Dio perché mi ha giudicato, sulla forca la sua coscienza sporca. La gente che soffre, le toffe, le coppie in crisi, i falsi sorrisi, fiordalisi sulle bare, le pare su pare di un ragazzino che comincia a pippare. Non può liberarci dal male, chi fa finta di niente se la gente sta male. Ho visto la Madonna in minicotti tangenziale, l'ho fischiato, non era niente male. E Dio se ne fotte se la auto sbanderà. Per questo do ragione a Piero Angela, la religione è l'oppio dei popoli che parlano a vanvera. Inutili monologhi, il tuo sermone è un tumore all'ipofisi. Andrà nel cerchio degli avari e dei prodighi, vendi indulgenze e ricavi narcotici. Voglio rivolgermi ai preti pedofili, hai altri compiti, quindi fottiti e lascia stare innocui bimbi docili. L'ho chiamato, cercato, ma Dio non c'è. In nome del Padre, del Figlio, bussato, dello Spirito Socanto. Ma Dio dov'è?